ad alta voce. Elisabetta Piccolomini legge L'Edera di Grazia Deledda. 18ª puntata. Cadeva la sera del terzo giorno dopo lo scarceramento della famiglia De Cherchi. Nel villaggio ormai non si parlava più dell'avvenimento se non per commentare la scomparsa di Annessa. Ella non era più tornata in paese. Dove sarà andata? Molti dicono che sta nascosta nell'ovile di zio Castigu. Per lo spavento è caduta malata, ha la febbre e non può muoversi. Altri assicurano di averla veduta in paese, in casa di Prete Virdis. È sempre stata là. Altri dicono che il vetturale, quello della Corriera Postale, ha portato da Nuoro una lettera di Annessa indirizzata a Donna Rachele. Perché ella non torna? Perché ha paura di essere arrestata? Voci vaghe e strane circolano ancora sul suo conto tra le persone meglio informate. La perizia medica ha concluso che il vecchio è morto di morte naturale in seguito ad un accesso di asma, ma l'accesso, aggiungono le persone ben informate, è stato provocato dai mali trattamenti di Annessa, la quale inoltre non ha fatto i suffumici, non ha somministrato all'infermo i calmanti prescritti dal medico. La colpa non è grave, ma le colpe, anche le più piccole, devono scontarsi con un castigo. Annessa ha paura e non torna. Vedrete che tarderà a ritornare, a ricomparire. I De Cherchi affermano che non sanno nulla di lei. I due nonni, che nonostante il male che ha loro causato vogliono portare il lutto per sua De Cherchi, non escono di casa e ricevono poca gente. Anche Donna Rachele non si lascia vedere. Paolo è intrattabile e da chi gli domanda notizie di Annessa risponde: «Ficcatevi nei fatti vostri, e lei dove le pare piace». Chi chiacchiera volentieri è Gantine. Quando ha saputo il fatto è ritornato in paese. Paolo, appena uscito dal carcere, gli ha domandato: «Perché sei venuto? Riprendi subito il tuo bagaglio e ritorna nella foresta». «Come perché son venuto? E Annessa? Non devo pensare a lei». «Annessa s'aggiusterà anche senza il tuo aiuto. Vattene». Ma Gantine si è ribellato. Egli gira per il paese, chiacchiera, domanda, dà notizie. È corso nell'ovile di zio Castigu, ha bussato alla porta di Prete Virdis. Annessa non c'è. La gente comincia a prenderlo in giro. Molti gli dicono: «Ma se Annessa è venuta da te nella foresta, forse avete fatto diverse strade». Allora Gantine, che in fondo soffre ma non vuole dimostrarlo, fa credere di sapere dove Annessa si nasconde. «È andata a Nuoro. È partita con la corriera il giorno dopo l'arresto dei miei padroni. Sta in casa di una nipote di Prete Virdis che è maritata con un negoziante nuorese». «Ma perché non torna?» «Perché ha paura delle vostre maldicenze, gente stupida e cattiva». E il povero Gantine va di casa in casa, ascoltando le chiacchiere, e poi corre da Donna Rachele e le domanda consiglio. E davanti a lei, che ha il viso magro e pallido, ma alquanto beato di una martire, sia fatta la volontà di Dio, piange di rabbia e di inquietudine come un bambino malato. Prete Virdis in corpetto, pantaloni e sciarpine, senza parrucca, senza fazzoletto in mano, stava seduto sul balcone di legno della sua casetta e finiva di leggere il breviario. Pareva un altro, dava l'idea di un uccello al quale fossero state strappate le migliori piume. Il piazzale, un triangolo di terreno roccioso davanti alla casetta, era deserto come un lembo di montagna. In fondo si delineava un profilo di paesaggio lontano, una cima violacea sull'orizzonte roseo del crepuscolo. Il cielo, sopra il piazzale e le casette cinere e silenziose, si scoloriva come un velluto azzurrognolo vecchio sciupato. Un alito fresco, odoroso di basilico, veniva dal fondo della strada. Tuttavia, Prete Virdis smaniava, come oppresso dal caldo, e in mancanza del fazzoletto agitava la mano scacciando un nugolo di mosche immaginarie. Che fare, che fare? Da 2 giorni Annessa era nascosta in casa sua. 2 sere prima, mentre egli ritornava da casa de Cherchi, ella, che lo aveva aspettato, nascosta dietro un muricciuolo del piazzale, gli era comparsa davanti all'improvviso. «Prete Virdis, Angelo Santo, sei tu?» «Sono io, eccomi, ho bisogno di parlarle. Vieni.» La casetta era silenziosa. Paola Virdis, la sorella del prete, dormiva a quell'ora in una stanza terrena attigua alla cucina. Al buio, tastoni, Annessa seguì il vecchio, del quale sentiva il respiro un po' affannoso. Attraversarono un andito, salirono su per una scaletta ripida, entrarono nella stanza dal balcone di legno. La finestra era aperta. Fino alla camera giungeva il canto di un grillo, un odore di basilico, lo splendore lontano d'una stella. Prete Virdis accese il lume. Annessa conosceva già quella stanzetta povera, arredata come la camera d'un contadino. Stanca, sfinita, ma con gli occhi illuminati da una fiamma interna, ella cadde a sedere pesantemente sulla vecchia cassapanca che pareva rosicchiata dai topi, e chinò la testa, quasi vinta dalla stanchezza e dal sonno. Prete Virdis chiuse le imposte, si volse, pareva di ratto. «Dunque?» «Sono qui», ella disse scuotendosi. «Sono passata là, ho ascoltato alla finestra.» «Dove là?» «Là», ella indicò con un gesto vibrato, come per significare che non poteva esserci altro là, altro posto davanti al quale ella potesse fermarsi. «Dov'era lei poco fa?» «Allora sono venuta qui, l'ho preceduta, l'ho aspettata. Ha veduto?» va bene, ho veduto.» Egli si mise a passeggiare attraverso la camera. Che fare? Che voleva da lui quella donna? Voleva aiuto. Voleva essere salvata da lui. Come salvarla? Non bastavano le buone intenzioni, le buone parole. Occorreva l'azione. Che fare? «Da 2 giorni penso a te», egli disse senza guardarla, «e penso che l'aria di questo paese non è più buona per te.» «Sì, voglio andarmene.» «Dove però? Dove? Ci pensi lei? Io?» egli disse puntandosi un dito sul petto. «Giusto io, sì. Voi combinate le magagne, dopo devo pensarci io.» «Lei è il pastore», mormorò Annessa. «No, non si arrabbi, prete Virdis, non mi abbandoni. Lei pensa a tutti e deve pensare anche a me.» «È tardi, è tardi», egli osservò con voce triste, ma ella finse di non sentirlo e proseguì. «Sua sorella Paola un giorno si lamentava con me e diceva: mio fratello non pensa mai a lui, perciò la nostra casa sembra una tana e la gente lo calunnia e dice che egli è avaro e che nasconde i suoi denari. Invece egli pensa sempre agli altri, è il padre dei malfattori, dei cattivi figlioli, degli sventati, dei disperati.» Prete Virdis andava su e giù, sbuffava, agitava il fazzoletto. «Paola è una pettegola, ecco che cos'è, una chiacchierona.» «Io voglio andare via, prete Virdis, non voglio più tornare in quella casa, mi aiuti lei. Stasera ho avuto il coraggio di non entrare là, benché la tentazione mi spingesse, ma domani, prete Virdis, domani, che accadrà di me domani? Io voglio andarmene, andrò a Nuoro, mi raccomandi a sua nipote, andrò serva, lavorerò, vivrò onestamente. Paolo verrà a cercarti, tu ricadrai ugualmente.» «No, no», esclamò Annessa intrecciando le mani e scuotendole con gesto supplichevole. «Non lo dica neppure. Lei, prete Virdis, lei parlerà con Paolo. Gli dirà tutto se occorre.» «Io? Le mie labbra si disseccheranno prima di rivelare il tuo segreto. Spetta a te.» «Io?» disse a sua volta Annessa. «Io?» Picchiarono al portone. Ella si interruppe e spalancò gli occhi. Nonostante ciò che era accaduto, ella aveva paura. Le sembrava impossibile che il suo delitto dovesse restare segreto e impunito. Poi una speranza triste e ardente le tremò in cuore. «Se fosse Paolo», disse sottovoce, «tu vorresti magari, stai zitta». Ella abbassò gli occhi. Pensò a quello che avrebbe fatto se Paolo le fosse ricomparso davanti all'improvviso. Si sarebbe gettata per terra con gli occhi chiusi, le mani sulle orecchie, la bocca sulla polvere per non vederlo, non ascoltarlo, non rivolgergli la parola. Eppure, quando Pretevirdis aprì il balcone e una voce di fanciullo, quasi piangente, supplicò «Pretevirdis, mio padre sta male, vuole confessarsi!» Ella sospirò, disillusa. «Si è aggravato?» domandò il prete. «Molto, pare un cadavere, dalla bocca gli è venuto fuori tanto sangue!» La voce del ragazzetto tremava. Ad Annessa parve di vedere l'uomo che vomitava sangue e ricordò il suo voto. «Voglio assistere gli ammalati, chiuderò gli occhi ai moribondi». Si alzò. Vide che Pretevirdis si metteva il cappello e si dirigeva verso l'uscio dimenticandosi di chiudere il balcone e senza badare più a lei. «Pretevirdis, posso assistere quel malato?» «Angelo Santos, non muoverti tu, sta lì!» «Quel malato non ha bisogno di te, tornerò presto». «Se zia Paola mi trova qui?» L'altro aveva fretta, non le rispose, ma prese il lume, uscì e chiuse l'uscio a chiave. Ella ricadde seduta sulla cassapanca e non si mosse più. L'odore del basilico, il canto del grillo, lo scintillio della stella penetravano per il balcone aperto e dopo un momento ella ebbe l'impressione di trovarsi ancora seduta sullo scalino della porta che dava sull'orto di Don Simone. E la dolcezza, la tristezza, il desiderio di tutte le cose perdute la riassalirono. «Chi mi impedisce di tornare là? Se fossi entrata, perché? Perché non devo tornare? Chi me lo proibisce? Pretevirdis che mi ha chiuso a chiave? Perché non devo tornare?» Il desiderio s'acuiva. Ella era stanca, aveva sonno, aveva la febbre. Era tempo di tornare a casa, di ricoricarsi nel suo lettuccio. Aveva camminato tanto, nell'ombra, tra le pietre, tra le spine. Era tempo di riposarsi. Ecco, ella chiude gli occhi. Si assopisce. Una figura balza subito davanti a lei. È zia Paola, la sorella borbottona di Pretevirdis. «Chi sei? Che fai qui? Una donna qui? Quel Micheli sta diventando matto davvero. Matto del tutto. Perché un poco lo è sempre stato. Vattene!» «Sono Annessa, zia Paola mia!» «Che zia Paola mia o non zia Paola? Vattene! Sono stufa dei malanni degli altri. Ne ho abbastanza dei miei!» Annessa si alza, se ne va. Cammina, cammina per le straducole scure. Arriva là, davanti alla casa di Don Simone. La porta è chiusa. Ella spinge il portone e il portone si apre. Ella entra nel cortile, entra nella cucina, entra nella camera. Dietro l'uscio arde il lumino da notte. Zio Zua sta seduto sul lettuccio e respira affannosamente. Ella si butta sul canapè e sta per addormentarsi, ma ad un tratto si solleva e guarda spaventata il vecchio. «Come? Non era morto? Non lo aveva ucciso lei? Che fa adesso il vecchio? Perché lo hanno rimesso lì? È vivo, è risorto, parlerà, l'accuserà. Bisogna fuggire, bisogna camminare ancora, andarsene lontano». Si svegliò tremando e pensò subito: bisogna camminare, camminare ancora. Poco dopo sentì Pretevirdis rientrare. Lo aspettò, ma egli tardò alquanto a salire. «Deve essere entrato da zia Paola per avvertirla che sono qui. Quanto borbotterà quella donna!» Zia Paola, invece, non borbottò. Ella dormiva in una cameretta terrena, poveramente arredata, come la camera del balcone. Quando Pretevirdis entrò e la svegliò dicendo che bisognava tener nascosta Annessa almeno per qualche giorno, zia Paola si contentò di rispondere: Adesso ti prende la mania di nasconder la gente, perché non puoi nasconder tesori. Falla venire qui, quella donna. Pretevirdis condusse Annessa nella cameretta terrena e lasciò sole le due donne. Zia Paola rassomigliava molto al vecchio prete col quale erano vissuti sempre assieme. Spogliati e vieni a letto con me. Se non vuoi coricarti a fianco mio, coricati a piè del letto, disse semplicemente. Annessa obbedì. Il letto era abbastanza largo e, sebbene non molto morbido, le pareva un letto di piume. Da tante notti dormivo per terra, disse. Mi pare di essere entro una barca e di andare lontano, lontano. Dov'è Annessa? Si può sapere? Se sapeste. Ero nascosta nella sagrestia della chiesa di San Basilio. San Basilio mio, esclamò l'altra facendosi il segno della croce. Sarà mai vero? Ed ora perché non sei ritornata a casa tua? Io non ho casa, zia Paola. Non sono tornata perché la gente dice... È vero. La gente dice che tu hai fatto morire Zua de Cherchi. Lo hai fatto arrabbiare e non gli hai dato il calmante. È vero? Annessa non rispose. Dove andrai, Annessa? Non tornerai più dai tuoi padroni? Chissà. Ora ho sonno. Lasciatemi dormire. E Gantine? Non l'hai riveduto? Egli gira per il paese cercandoti. Sembra un pazzo. Povero Gantine, è tanto giovane. La vecchia insisté, ma Annessa chiuse gli occhi e ricadde nei suoi sogni tristi. E rimase altri 3 giorni nascosta in quella cameretta malinconica. Di là sentiva la voce di Gantine che domandava notizie di lei. Figlio mio, diceva zia Paola, Annessa deve essere scappata lontano, molto lontano, e ha fatto bene. Io me ne sarei andata in capo al mondo, sarei scappata come un gatto che ha toccato il fuoco. Ma perché, perché? Domandava Gantine con voce lamentosa. Perché? Perché così, va, mettiti il cuore in pace. Annessa forse non tornerà mai più in questo paese. Ah, quel vecchio, se fosse ancora vivo lo ammazzerei io, anche dopo morto ci tormenta. È vero, è vero. Singhiozzò Annessa nella penombra della triste cameretta. «Ella non mi vuol bene», riprese Gantine. «Da molto tempo non mi vuol più bene. Altrimenti non avrebbe fatto così, zia Paola. Non avrebbe fatto così. Capisco che ella serbi rancore contro i nostri padroni e non voglia più ritornare in una casa dove ha tanto sofferto, perché è a causa loro». «Taci, linguacciuto», impose zia Paola. Che causa loro? Sono loro invece che dovrebbero dire. Che cosa dovrebbero dire? Insomma, se Annessa avesse dato il calmante al malato, egli non sarebbe morto. Il calmante? Doveva strangolarlo invece, doveva. Ehi, linguacciuto, taci! Annessa si domandava. Se Gantine sapesse, mi scuserebbe. Forse sì. Anche lui lo odiava. Ma egli non saprà mai. No, no, no. Vattene, Gantine, vattene. Io non voglio più ingannarti. Non voglio più ingannare nessuno. Finito di leggere il suo breviario, Prete Virdis s'alzò e si affacciò al balcone. Il cielo s'era fatto cinereo. La stella che mandava il suo scintillio verdognolo fin dentro la cameretta era apparsa sopra la montagna lontana. Il grillo cantava. Prete Virdis aspettava Paolo e il vetturale zio Sogos, che doveva portargli una lettera da Nuoro, ma entrambi tardavano. Eppure la corriera doveva essere arrivata da oltre un'ora. Finalmente un vecchio, miseramente vestito, attraversò il piazzale e batté al portoncino sotto il balcone. «Venite su, era tempo!» disse Prete Virdis, ritirandosi. Accese il lume, cercò la parrucca che stava ad asciugare sopra una sedia e se la rimise ancora umida di sudore. Poi chiuse il balcone e aprì l'uscio. Zio Sogos saliva la scaletta e sospirava. «Siamo vecchi, Prete Virdis, siamo vecchi, si cammina piano adesso!» Entrò, alto, curvo col viso rugoso e ispido di peli grigi. Il vetturale sembrava un mendicante. «Ebbene, avete veduto mia nipote?» «L'ho veduta, le ho portato la lettera. Ecco qui la risposta.» «Sedetevi lì un momento, aspettate», disse Prete Virdis mentre apriva la lettera, senza accorgersi che la busta era stata già aperta. Va bene», disse poi ripiegando il foglietto e lasciando la busta sulla tavola. «E adesso sentite, voi dovete farmi un favore». Il vecchio, seduto sulla cassapanca davanti alla tavola, fissava i piccoli occhi umidi e tristi sulla busta e allungava lentamente la mano. «Comandi, Prete Virdis. Lei mi ha tante volte aiutato. Sempre le ho detto, Prete Virdis, mi comandi, sono il suo servitore. Bisogna che domani, no, post-domani, voi conduciate a Nuoro, nella vostra carrozza, una persona che non vuole essere veduta partire da Barunei.» «Va bene, ho capito», rispose prontamente il vecchio. «Basta che questa persona vada a piedi fino al ponte, post domani mattina, presto, e mi aspetti là. E se c'è qualcuno che vuol partire?» «Si saprà domani sera, verrò ad avvertirla, semmai. Va bene. E...» «Silenzio, non è vero? Voi mi capite, non è vero?» «Va bene, non dubiti.» Il vecchio si alzò e mise la mano sopra la busta. «Paola, porta da bere!» gridò Prete Virdis affacciandosi all'uscio. Ma poiché nessuno rispondeva, scosse la testa e disse: «Andiamo giù, vi farò dare un bicchiere di vino. O volete acquavite?» «Vino, vino!» rispose zio Sogos, stringendo la busta dentro il pugno. «L'acquavite non è mia amica.» Dal suo cantuccio Annessa sentì la voce del vecchio carrozziere e sospirò. Finalmente doveva essere giunta la risposta da Nuoro. Partire, partire, arrivare in un luogo ignoto, fra gente nuova, cominciare una nuova vita, lavorare, soffrire, dimenticare. Ella non pensava ad altro. Appena uscito zio Sogos, Prete Virdis entrò da lei e disse: «Come? Al buio? Che fa quella donna benedetta che ti lascia al buio? E che quest'anno non si trovano olive? Non si trova olio?» «Per quello che ho da fare», mormorò Annessa. «E poi il lume è qui.» Si alzò e cercò i fiammiferi. «Ecco qui la risposta di Maria Antonia, mia nipote. Dice che ha trovato un posto per te presso una famiglia almorese.» Nel sentire la buona notizia, ella provò quasi un impeto di gioia. Ma d'improvviso tremò spaventata e lasciò cadere il fiammifero acceso. La piccola fiamma violacea brillò e si spense. Prete Virdis tacque e nel silenzio, nelle tenebre, Annessa dimenticò ogni cosa passata, ogni cosa presente, per ascoltare la voce di Paolo De Cherchi. «Che fate, zia Paola? Dov'è Prete Virdis?» La sua voce era seria, quasi dispettosa. «Ah, è lei, Don Paolo. Micheli verrà adesso. Venga su in camera.» «Dov'è? Dov'è? Venga, venga su.» Zia Paola lo precedette col lume. Egli la seguì. «Che vuole?» domandò Annessa piano. E Prete Virdis rispose sottovoce: «Non so. Credo che egli dubiti, come lo dubitiamo tutti, che tu sia qui. Ecco, ti lascio qui la lettera, leggila, vado, coraggio.» Ella accese un altro fiammifero e lesse le poche righe scritte malamente. «Caro zio, mi sono subito occupata della vostra commissione, ci sarebbe un posto buono per la donna che mi raccomandate. Il padrone sarebbe un proprietario benestante di Nuoro che ha la moglie vecchia e non ha figli. C'è però da lavorare, fare molto pane d'orzo per i servi, lavorare anche in campagna. Però questi padroni sono persone caritatevoli e tratterebbero molto bene la serva da voi raccomandata. Se questa vuole può venire anche da domani, noi siamo sani, eccetera. Vostra nipote Maria Antonia.» Annessa lesse e rilesse, ma il suo pensiero era là, nella cameretta, dove Prete Virdis e Paolo parlavano certo di lei. Che cosa dicevano? Che cosa voleva Paolo? Ella avrebbe dato 10 anni del resto della sua miserabile vita per poter ascoltare il colloquio fra i due uomini.